Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. La Campania non è, ringraziando Dio, solo illegalità e camorra, anzi, questo è il volto peggiore che ottunde e oscura, il volto migliore fatto di legalità, principi, valori, storia, tradizione, cultura, che continua, ringraziando Dio, anche attraverso i giovani, i più giovani, ragazzi nati dopo il 1980, a volte anche dopo il 1985, giovanissimi, che ad Aversa un giorno decisero nel 2005 di riunirsi, parlarsi tra di loro e dar vita ad un sito che si chiama CafeNews.it, che è una testata di informazione campana, sì, ma che poi ha sede, come dire, ha sentinelle, spie, allarme in tutta Italia. Il direttore di CafeNews.it, Paolo Esposito, ha appena 24 anni, è giovanissimo, è un giovane giornalista campano che con questo sito non si vuole certamente fermare qui. Buongiorno Paolo Esposito. Buongiorno a te Roberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come vi è venuta questa idea? Guarda, l'idea è nata davvero per caso, ai tempi del liceo. Io ero tra i banchi di scuola e il mio professore di italiano parlava, anche in maniera molto teatrale, di caffè letterari, il famoso caffè letterario, certo, di Pietro Verri, e della mancanza di un caffè letterario nella mia città, appunto, ti ho detto, sono di Aversa. E così da lì è nata l'idea per il mio primissimo articolo per un quotidiano cartaceo e poi l'idea di questo sito, un caffè, diciamo, virtuale, dove le persone potessero riunirsi, conoscersi, incontrarsi, dire la propria e soprattutto tenere gli occhi aperti e accesi sul mezzogiorno del nostro paese. Assolutamente. Senti, ma raccontando storie di mafia e antimafia, come facciamo noi con la nostra radio, quanti caffè avete o state mandando di traverso? Penso parecchi, di solito sono amari, ma cerchiamo di addolcirli di tanto in tanto, cercando anche qualche pillola di cultura, di musica e di un'antimafia che sia anche non solo di denuncia ma anche di controinformazione, facendo informazione su cosa c'è di bello in queste terre, che molto spesso vengono si dà sempre più visibilità, diciamo, a cosa non va piuttosto delle cose che vanno. Assolutamente. Senti, ma una curiosità, come vi mantenete? Cioè questo sito probabilmente sarà un sito low cost, come va di moda dire, con contributi spontanei, ma in ogni caso un costo ci sarà. Come vi mantenete? Guarda, e fortunatamente abbiamo delle pubblicità che ci garantiscono il mantenimento del sito. Per il resto si basa tutto sul volontariato di quanti, appunto, certo, si collaborano. Certo. La stessa redazione, diciamo, non percepisce alcun compenso, lo facciamo tutti diciamo in un sano volontariato che ovviamente fa bene certamente al nostro territorio. Assolutamente sì. Italia. Dicevo all'inizio che ovviamente il vostro impegno antimafia non si ferma ed è bellissimo ascoltarlo da un ragazzo che ha 24 anni, ripeto, alla fondazione di un sito. Quali altri progetti avete per dimostrare quanto sia splendida la vostra provincia e la vostra regione? Allora, ovviamente su CafeNews non descrivono solo persone, insomma, dalla Campania ma anche da altre regioni. L'idea si è sviluppata nel corso degli anni, quindi accanto a un magazine abbiamo anche una web TV dove trasmettiamo programmi in diretta di informazione sui territori e sui temi che più ci stanno a cuore, e prossimamente abbiamo anche in programma un libro a più voci, fatto di storie dei territori, di storie dai territori difficili e complicati come quelli da cui io, certo, vi parlo. Ma è vero che avete anche intenzione di fare concorrenza a Radio 24 fondando una web radio? Penso che sia un po' difficile perché ci mancano fondi, però se qualcuno in ascolto, insomma, tiene a cuore. Ma guarda che questo qui non è una cosa da disprezzare, anzi faccio appello a chi avesse dei soldi da mettere a disposizione per una cosa straordinaria come quella della crescita della legalità, intanto si colleghi con CafeNews.it e poi li troverà. Grazie le persone per la pubblicità. Assolutamente, di cuore. Siamo anelli di una catena di legalità, lo dico mille volte, lo dico sempre, altrimenti non serviamo assolutamente a nulla nella crescita di questo paese. Problemi ne avete avuti sul territorio? Voglio dire, minacce, intimidazioni oppure no? Minacce, intimidazioni diretti no, però abbiamo avuto qualche problema magari con qualche articolo, ci è stato chiesto magari di rimuoverlo per evitare evitare eventuali querele per diffamazione, perché non possiamo permetterci di pagare, certo. E purtroppo abbiamo dovuto insomma cercare di risolvere in qualche modo. Però al momento insomma siamo abbastanza tranquilli, anche perché tutti gli articoli vengono vagliati, c'è una sorta di revisione, di controllo. Bene. Insomma, siamo molto sicuri. Bene, mi ha fatto davvero piacere parlare con un giovane che si impegna in questo modo. Dico grazie a tutti coloro i quali continueranno a segnalarci queste storie, ed è per questo che ricordo la mail sottotiro@radio24.it. Grazie a Paolo Esposito, direttore di caffenews.it. Grazie a voi. Grazie a Carmelo Lauricella in regia e a Laura Faggini in redazione. Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.